Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. In questa puntata, Cristiano Cavina, lo scrittore che andava male a scuola e che si è fatto aiutare dagli studenti a correggere il suo ultimo romanzo. A Milano Book City, 700 eventi dal 21 al 24 novembre, presentato il programma. Sul domenicale del Sole 24 Ore, pagine inedite di L'uomo senza qualità di Musil. Non è certo la prima volta che parliamo di Cristiano Cavina, il cacciatore di libri. Diciamo che stiamo un po' seguendo tutta la sua carriera, dal primo romanzo alla grande, poi c'è stato Nel paese di Tolintesac, un'ultima stagione da esordienti, I frutti dimenticati, Scavare una buca. Cavina, che oltre a fare lo scrittore fa il pizzaiolo, parla moltissimo di sé nei suoi libri, della sua vita a Casola Valsenio in Emilia Romagna, del fatto che è cresciuto senza padre e anche del fatto che andava male a scuola. Nell'ultimo romanzo, Inutile tentare imprigionare sogni, che è poi l'acronimo di ITIS, pubblicato come tutti gli altri dalla Marcos & Marcos, si parla proprio della vita di uno studente dell'ITIS, dell'Istituto Tecnico. Scuola, sottolinea Cavina all'inizio del romanzo, frequentata quasi esclusivamente da maschi, e questo naturalmente finirà per complicare la vita sociale e sentimentale degli studenti. E allora veniamo subito alla protagonista di questo romanzo, come ci racconta Cristiano Cavina. Baldo Creonti, fra l'altro è un misto perché io i cognomi della mamma di mio nonno era Creonti, è da una famiglia che si è estinta, non esistono più i Creonti, sono estinti. Avevo usato Baldo Creonti per un mio vecchio racconto, a me piacciono molto gli scrittori irlandesi, alla Roddy Doyle. Volevo provare la mia infanzia a Casola negli anni 80, mi è sempre sembrata molto irlandese, in queste case senza riscaldamento, senza una lira, tutto un po' selvatica, no? E quindi avevo provato a scrivere di una famiglia di Casola come se fosse irlandese. Il racconto era orrendo, però quando lo sono andato a rileggere spiccava questo Baldo Creonti. Avevo da parte una scenetta che avevo raccontato tanti anni prima dell'IT, che avevo visto un mio amico che si faceva picchiare davanti a ragioneria, e ho provato a prendere quella scenetta e metterci dentro Baldo Creonti, e Baldo Creonti dal di lì mi ha raccontato tutta la storia, perché io poi sapevo già che avrei scritto dell'IT e che non trovavo la voce, e Baldo Creonti mi dà la voce. Lui vive con la mamma, assomiglia in qualcosa a me, non tutto. Io avevo un nonno diverso dal suo, lui è un nonno tremolante, abbastanza particolare, però lui è la voce che mi racconta, mi ha riraccontato le storie delle superiori, insomma. È un ragazzo che, insomma, a scuola non va proprio bene, diciamo così, cerca di evitare in tutti i modi le interrogazioni, spesso non va a scuola, si dice fa buca, insomma non va a scuola. E quindi un ragazzo da un certo punto di vista ribelle. La cosa curiosa è che la madre all'epoca, anche lei non aveva studiato tanto, però dal figlio pretende che lui studi. Insomma, il solito conflitto generazionale. Lì ho preso a piene mani dalla mia vita, perché mia mamma e i miei nonni non l'avevo mai fatto studiare, e mia mamma, penso, non sono neanche sicuro che abbia finito le medie, sinceramente. Quando però si è ritrovata ad avere il figlio a scuola, io rappresentavo tutte le sue speranze, i sogni di gloria accademici erano riposti in me, e pensare che i professori gli avevano detto: guardi, lo mandi a lavorare dopo le medie per non perdere tempo lei e i professori e al ragazzo. Mia mamma invece mi ha iscritto alle superiori, a Liti, scegliendolo già con... aveva il suo senso, perché ha scelto Liti perché c'era una specializzazione dell'IT che non aveva matematica in quinta all'esame, perché se fosse stata matematica in quinta non sarei mai passato, ed era elettrotecnica. Quindi io ho iniziato l'IT sapendo già che avrei fatto elettrotecnica, perché non c'era matematica. E mi sono ritrovato, io il primo anno di IT piangevo come Baldo Creonti, andavo nei bagni a piangere perché non stavo bene, perché non capivo niente, non mi è mai venuto naturale fare quelle cose. E pensare che la cosa buffa è che a me piaceva andare a scuola. A me piaceva andare proprio all'edificio, andare con i miei amici, perché mi divertivo, succedevano sempre un sacco di cose divertenti, era bello. L'unico problema era che c'erano le interrogazioni e bisognava studiare, sennò la scuola era un posto magnifico per passare le mattine. E quindi ho convissuto con il mal di stomaco per 5 anni in corriera, andando a scuola come Baldo e pensando: non ho studiato, se mi sorteggiano sono rovinato. Riuscivo però sempre a inventarmi qualcosa. Alla fine sono stato rimandato in matematica tutti gli anni, però sono sempre stato promosso, diciamo. Baldo Creonti in questo ti somiglia parecchio, insomma, nel senso che appunto non ha voglia di studiare, l'abbiamo già detto, e in questo romanzo tu racconti un po' avventure e disavventure che lui vive con tutti i compagni maschi della sua stessa classe. Sì, perché Baldo Creonti, come quasi tutti noi che abbiamo fatto l'IT, lui non è entrato in una scuola superiore, ma è entrato in clausura, perché come tutti gli Itis erano tutti maschi, io eravamo 500 Imola, eravamo tutti maschi ed era particolare, insomma era anche abbastanza, poi i maschi erano dei modelli particolari di maschi, c'erano metà Jim Morrison tarocchi e metà metallari, era una cosa proprio un mondo parallelo. E poi quando tornavi a casa in corriera c'erano i tuoi amici che facevano ragioneria, geometra al liceo, che avevano tutti ste compagne di classe, insomma sembravano fare la vita degli attori porno più che altro, che la metà non era vero, però vuoi mettere la mattina, ti svegli alle 8, ti svegli alle 6 e mezza da caso, almeno arrivi a scuola e ti trovi una bella compagna di banco, almeno da vedere, invece arrivi lì e vedi sempre le solite facce col capello lungo metallaro o la cotonatura alla Jim Morrison, è tutto un altro mondo, insomma, però è divertente. Questi sono i riferimenti della tua, diciamo, gioventù, diciamo, della tua scuola superiore negli anni 80, suppongo. Sì, fine anni 80, inizio 90, quel periodo lì che ho fatto l'IT, perché poi ho cambiato città, ho fatto il biennio a Faenza e il triennio a Imola. La differenza era che a Faenza la scuola era proprio attaccata alla stazione delle Corriere, però era dall'altra parte della strada, se riuscivi a attraversarla andavi a scuola. A Imola invece era proprio in un altro continente la stazione delle Corriere, quindi dovevi fare sti chilometri a piedi. Mi sono trovato bene in tutte e due le parti, insomma, a parte il fatto che come tutti i ragazzi di campagna poi ti prendono in giro, te sei quello che viene dal paese più remoto. Poi Baldo te dicevi ribelle, è un ribelle però che non lo vuol far per forza, lui ha certe cose che non gli tornano, non è di quelli che poi in realtà fanno casino, che si ritrova nei disastri. Beh, io sono sempre stato così, non ero uno che faceva confusione, però tiravo i disastri anche senza volerlo. Le somiglianze fra l'autore Cristiano Cavina e Baldo Creonti non finiscono qui. Per esempio, Baldo non è il papà. Tu l'hai spesso ripetuto in tante interviste, ma anche nei tuoi libri spesso ci sono personaggi che non hanno il padre, tu non hai mai conosciuto tuo padre. Come mai però metti sempre nei tuoi romanzi un personaggio che non è il padre? Cioè, questa è una cosa proprio che segna i tuoi romanzi. Cioè, lo metti sempre. Sì, poi tutti i miei libri sono scritti in prima persona. Quindi alla fine sono io che racconto. Io ho sempre detto che sono un narratore più che uno scrittore, invento ben poco, io racconto quello che so e quello che ho vissuto, già mi sembra un miracolo che me lo pubblicano, insomma io ho sempre scritto per salvare le cose della mia vita per me, per caso, non immaginavo che le leggesse delle altre persone, no? E quindi quando scrivo mi viene più facile, per essere più sincero, per scrivere con più passione devo mettermi così, non ce la farei a fare un narratore che ha al padre, perché non ho più pallida idea di cosa deve fare, no? E quindi per me è normale così, penso che sarà sempre così. Tu vivi a Casola, dove lavori in pizzeria, fai il pizzaiolo e fai anche appunto lo scrittore. Mi ha incuriosito, mi ha fatto sorridere un po' che in questo romanzo alla fine è scritto Made in Casola, fatto appunto a Casola. Ci tieni molto a questa appartenenza, a queste tue radici? Sì, nelle mie cose, anche nelle mie mail da tanto c'è scritto Made in Casola. Io sono, cioè sai, quando vieni in un posto così piccolo, sono quei posti che resistono nelle tempeste di un mondo che cambia in fretta, ci puoi trovare ancora cose che magari appartengono più al secolo scorso, no? E io voglio molto bene, sono fiero di essere fatto di quella pasta, di quel terriccio lì, no? E mi piace mettere fatto a Casola, perché in realtà le mie storie non potrebbero nascere da nessun'altra parte, perché io come narratore sono un narratore, conosco quel pezzo di vigneto lì, no? E io salvo quel vigneto lì, è tutto quello che so fare, e quindi è giusto che sappiano che è fatto lì, è come il Sangiovese della vigna di mio nonno è fatta la furina, no? E quelle cose sono, le mie parole sono made in casa. Questo romanzo ha avuto una genesi anche particolare, nel senso che tu durante gli scorsi mesi hai incontrato ogni tanto dei ragazzi delle scuole superiori a cui sottoponevi un po' i tuoi scritti, i tuoi inediti, all'epoca erano inediti, glieli facevi leggere e loro ti davano così anche dei consigli, facevate un lavoro di editing quasi collettivo. Che cosa hai ricavato da quell'esperienza? È curioso il fatto che le cose che scrivi te gli fa l'editing 20 adolescenti. Anche solo per come leggono le tue cose, cosa ci vedono, cosa capiscono, no, perché io poi sono cresciuto in un'epoca differente, insomma, noi non avevi telefonini, non esistevano, per dire, già questo è particolare, però è stato molto bello, mi hanno dato molti consigli, mi hanno detto qui potrebbe succedere questo, lui magari fa così, questo fa di là. Poi a parte c'era una cosa molto buffa, mi dicevo ma lei comunque anche non è poi così vecchio, dai, mi sono stati messi complimenti, no? Lei non è poi tanto vecchio, cioè, oh, grazie, comunque sono stato anche più giovane, però è stato molto bello, è stato molto interessante, mi hanno anche corretto gli errori di ortografia e grammatica, quindi ho potuto appurare che a 17-16 anni loro ne sanno più di me, e questa è una cosa buona per la scuola italiana. E poi mi mancava, io ho sempre preso brutti voti dai professori, invece vedi, ho fatto il circolo completo, sono riuscito a prendere belli voti ma anche brutti voti dagli studenti, quindi ho fatto tutto a scuola, proprio ho sbagliato ovunque, sono riuscito a sbagliare a tutto tondo e ne vado molto fiero. Questo titolo così secco, inutile tentare imprigionare sogni, insomma non ci sono preposizioni, proprio parole secche, come mai l'hai deciso tu, l'ha deciso la casa editrice, insomma come siete arrivati a elaborare questo titolo? Ho segnato il manoscritto, era inutile tentare istruire scemi, che è l'acronimo di IT. Poi dopo la Marcos, dopo parlandone, trovavano che fosse un po', che non rispecchiasse il libro, che potesse essere un po' esagerato, non so se avevano fatto leggere anche dei professori che insegnano a Liti e dicevano basta questa cosa degli scemi a Liti, c'è anche una sottotrama che riguarda i sogni, gli uccellini chiusi in gabbia, tutte queste cose qui, e quindi secondo, alla fine si è deciso di mettere in prigionare sogni perché era, dava più l'idea di tutto il libro, però io quando ho scritto il libro era inutile tentare istruire scemi, che è l'acronimo di Liti. Tu sei uno scrittore che ha mantenuto, come dire, una vita normale, appunto fai un lavoro normale, lavori in pizzeria, sei anche molto, molto umile come persona, non ti sei montato la testa. Che rapporto hai con il mondo degli altri scrittori? Li leggi, li frequenti? Guarda, io non è che mi monto la testa perché non ho niente di cui montarmi la testa, sinceramente, non è che sia poi... Sono un ragazzo di campagna che incidentalmente scrive libri che qualcuno legge, ma neanche poi queste folle oceaniche, anzi. Quindi poi sono un ragazzo di campagna, sono un po' come tutti i romagnoli, un po' tendo al gradasso. E fare le pizze mi aiuta a non gonfiarmi troppo, perché quando sei davanti al forno a legna in agosto che ci sono 80 gradi non è che pensi che figo, cioè scrivi libri, dai, viene la gente a farsi autografare i libri in pizzeria da lontanissimo, no? Me ne arrivano tutti i giorni, no? Perché alla fine è così, io penso sempre che i libri siano di chi li legge, non di chi li scrive. E a me mi sembra anche molto imbarazzato il fatto che ti chiedano dei libri, perché io non penso di essere particolarmente intelligente o bravo, solo il piacere di raccontare, sono un chiacchierone, no? Sono nato chiacchierone, e scrivere un libro è il mio modo di chiacchierare con degli amici, condividere delle cose, non c'è niente di... Non penso di avere talenti particolari o cose particolari, ho questa passione che ho coltivato, mi sono allenato, il gusto di farla, no? Come uno va in bicicletta e un po' alla volta fa le salite più dure. E questo era Cristiano Cavina, che ci ha parlato del suo ultimo romanzo Inutile tentare imprigionare sogni, pubblicato da Marcos y Marcos. E lo scrittore sta facendo un tour di presentazione del suo libro decisamente particolare. Questo tour si chiama Cristiano Cavina alla lavagna. Allora, che cosa fa Cavina? Allora, va nelle librerie dove incontra alcune classi di scuola superiore e sono gli studenti a sottoporlo a una vera e propria interrogazione sul libro. Ed è un modo veramente originale e divertente per coinvolgere i ragazzi appunto su un romanzo. L'avete anche sentito, Cavina, che ha fatto collaborare una serie di studenti proprio al lavoro di editing del suo romanzo. Una delle tappe di questo tour sarà venerdì 22 novembre a Milano nell'ambito della manifestazione Book City. E adesso parliamo allora di Book City, che è di fatto il primo festival letterario a Milano, che è considerata la capitale dell'editoria. Pensate che a Milano circa il 50% delle attività imprenditoriali è fatta da case editrici, stamperie e indotto del settore, insomma, quindi direi un risultato notevole. Era anzi insolito che non ci fosse un festival letterario a Milano. L'anno scorso è nato appunto Book City, all'inizio è stato un po' un esperimento, un'organizzazione proprio là, un po', però devo dire un grande successo di pubblico, proprio di gradimento da parte del pubblico. Quindi ora Book City è diventato un appuntamento fisso di novembre. Quasi 700 eventi che nascono dalla collaborazione fra Comune di Milano e le fondazioni di Rizzoli, Feltrinelli e Mondadori, oltre alla Scuola per Librai Umberto ed Elisabetta Mauri. Il programma di Book City, che si svolgerà appunto a Milano dal 21 al 24 novembre, è stato presentato giovedì. Vediamo allora di che cosa si tratta, appunto gli eventi sono tantissimi, impossibile citarli tutti, ma vediamo un po' quello che ci ha colpito. Ci sono soprattutto scrittori italiani, forse anche per una questione di costi in questo momento di crisi. Ne cito alcuni, da Andrea De Carlo a Gianrico Carofiglio, da Marco Buticchi ad Asha Maraini. Nome di punta invece per gli stranieri è Glenn Cooper, attesissimo direi dai suoi fan. Non ci saranno semplici presentazioni di libri, piuttosto saranno incontri su alcuni temi che prendono spunto dai romanzi. Tra le iniziative più originali, le vie parlanti. Per strada in quei giorni a Milano ci saranno alcuni attori che reciteranno dei brani tratti dai libri del personaggio al quale è intitolata quella strada. Oppure presso alcune edicole verranno raccontate delle storie noir, verranno quasi strillate, come si faceva un tempo a proposito dei giornali di cronaca. Poi ci sarà per esempio un reading al buio presso l'Istituto dei Ciechi. Sono state anche coinvolte le scuole da alcuni mesi, gli studenti dalle elementari alle superiori hanno incontrato scrittori, grafici, editori proprio per capire come nasce un libro. E di Book City ne abbiamo parlato con l'editore Luca Formenton. È una grande festa della lettura e del libro, non è un festival di editori, che è una cosa diversa, cioè in altre città, è una festa dedicata ai lettori, ai cittadini lettori, come mi piace dire. C'è stato anche un lavoro che avete fatto nelle scuole come comitato di Book City, insomma è da qui che si deve partire per incrementare la lettura. Senza ombra di dubbio, la lettura che è una delle fondamentali istanze per costruire una società democratica deve partire dall'abitudine alla lettura nelle scuole. È una cosa che è stata trascurata. Noi dobbiamo invece di assistere a un florilegio di scuole di scrittura che per carità non hanno importanza, cominciare a pensare seriamente a fare delle scuole di lettura, indipendentemente dalle scuole come istituzione, ma delle scuole di lettura, perché il compito degli editori, per quanto strano possa sembrare, è anche creare lettori. Più di 700 eventi per questo Book City, non si tratta di semplici presentazioni di libri, in che modo avete cercato di organizzarle? Abbiamo tentato di dare un'impronta all'organizzazione che proprio andasse al di là della banale presentazione, infatti nelle richieste che mi ha mandato gli editori era proprio specificato non deve essere una presentazione, ci deve essere sempre un problema, un issue come si direbbe in inglese su ogni presentazione, ogni incontro dei libri, e accanto agli argomenti prodizionali ci sono iniziative che nulla hanno a che fare con l'impaludata classica presentazione, arrivando fino alla splendida partita di calcio che mi sta molto a cuore. Una festa per i lettori ma anche per i non lettori? Una festa che vorrebbe trasformare alcuni ex lettori in nuovi lettori. Non ho mai avuto l'impressione che le campagne per convertire gente alla lettura abbiano il loro significato. Se noi riuscissimo a far leggere o far tornare a leggere quelli che già leggono, soprattutto offrendogli occasioni come Book City, credo che saremmo messi sicuramente meglio. La partita di calcio a cui faceva riferimento Formenton sarà giocata da scrittori, editori, giornalisti e per assistere tra l'altro all'incontro si pagherà un biglietto speciale, basterà portare un libro e poi tutti questi libri insieme saranno donati alle biblioteche scolastiche, direi insomma un'iniziativa di tutto rispetto. Nel Cacciatore di Libri versione serale abbiamo la possibilità di dare un'anticipazione su quello che pubblicherà domani il domenicale, ossia l'inserto culturale del Sole 24 Ore. Stavolta si parla addirittura di un inedito, di alcune pagine inedite dell'Uomo senza qualità, l'opera monumentale che era stata scritta nel Novecento dall'austriaco Robert Musil. Armando Massarenti, responsabile del domenicale, di che pagine si tratta? Qui pubblichiamo uno stralcio di un libro che è in uscita, che è la prima edizione mondiale nella sua interezza della prima stesura preliminare dell'Uomo senza qualità, cioè quindi di uno dei grandi classici del Novecento, un romanzo incompiuto ma anche nella sua incompiutezza di una bellezza incredibile, anzi è uno dei miei preferiti se posso fare una notazione personale. Ecco, perché un romanzo anche enorme, ricordiamo enorme, che è un'opera più di 1000 pagine, è stata ma scritta. Se ne vorrebbe anche di più, perché quando poi un romanzo è bello se ne vorrebbe anche di più, ed è se ne vuole anche di più, tant'è che diventa anche molto interessante leggere queste pagine preliminari, che peraltro sono scritte in uno stile abbastanza diverso. Il personaggio Ulrich, l'uomo senza qualità, qui si chiama Anders, gli altri si chiamano, insomma, si preconizzano un po' tutti gli altri personaggi, ma lo stile è molto diverso, è più drammatico, è più, ci sono anche delle scene piuttosto turpi, ci sono delle grottesche, l'ironia che troveremo nel romanzo poi non compiuto ma quasi compiuto, comunque quello che tutti abbiamo letto, qui non c'è ancora, c'è piuttosto un sarcasmo, c'è anche della violenza. Infatti il brano che noi abbiamo scelto di questo volume, che si intitola Il Redentore, è un brano in cui Anders, che poi diventerà Ulrich nell'Uomo senza qualità, addirittura stupra, da un lato intellettualmente ma anche fisicamente, Diotima, che è poi uno dei personaggi principali dell'Uomo senza qualità. Grazie Armando Massarenti, troverete tutto naturalmente sulla domenicale del Sole 24 Ore domani in edicola. Adesso diamo qualche informazione dal mondo dell'editoria. E allora ora prendete penna e carta per segnare un po' di appuntamenti culturali interessanti. Per gli appassionati di fumetti, dal 31 ottobre al 3 novembre, Lucca Comics, il Festival Internazionale del Fumetto, del Cinema d'Animazione, dell'Illustrazione e del Gioco. È un appuntamento imperdibile per chi ama il genere. Ci saranno autori di graphic novel come Zero Calcare, che presenterà proprio la sua ultima fatica, e poi Gipi, Manuele Fior, che sono nomi italiani del graphic novel affermati a livello internazionale. Fra gli stranieri vi segnaliamo Julie Marot, che è l'autrice del graphic novel che è diventato un bestseller in Francia, dal quale è stato tratto il film La vita di Adele, film che ha vinto il Festival di Cannes. E poi mi piace segnalare, proprio per passione personale, la presenza di Leo Ortolani, che è il creatore del fumetto Ratman, del personaggio Ratman, e che sarà invece Lucca Comics con un fumetto creato proprio ad hoc per questo evento, che ha per protagonista il mondo della scienza. Arrivano la prossima settimana, precisamente mercoledì 30, in libreria Gli Intramontabili. È una nuova collana della casa editrice EO, nella quale sono raccolti grandi autori del passato. Si inizia con Bella di giorno di Joseph Kessel, con la traduzione dal francese di Elisabetta Sibilio. Da questo romanzo, lo ricordiamo, fu tratto nel 67 il famoso film Bella di giorno con Catherine Deneuve, ed è lei proprio che compare sulla copertina di questo primo volume degli Intramontabili. Per gli appassionati di Italo Calvino, ne abbiamo parlato la settimana scorsa in occasione dei 90 anni della nascita dello scrittore, è stata inaugurata ieri a Roma la mostra I libri degli altri, il lavoro editoriale di Italo Calvino. Ci sono prime edizioni, riviste, lettere, foto. La mostra rimarrà aperta fino al 31 gennaio alla Biblioteca Nazionale di Roma. Infine, per i giovani, anzi i giovanissimi, che vorrebbero diventare scrittori, ha preso il via il concorso letterario Campiello Giovani, dedicato ai ragazzi fra i 15 e i 22 anni, residenti in Italia o all'estero. C'è tempo fino al 15 gennaio del 2014 per inviare i racconti. Tutto il regolamento si trova su www.premiocampiello.org. Anche per oggi è tutto, grazie in regia a Pietro Lacorte. Vi ricordo che trovate queste e le altre edizioni del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Ci trovate su Facebook e su Twitter come Ale Teddina. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.